Mao. Chi sei? Mao. Sei troppo amplificato. Sono io, Fabrizio, con l'Alan 48 modificato. Ogni tanto lo accendo per vedere se funziona ancora. Ciao Fabri, Luca, sono, vabbè, mi hai conosciuto. Aspetta un attimino, eh. È troppo alto quell'eco, Fabri, eh. Aspetta. Ok, stazionarie. Adesso sto usando il Typhoon, l'ho sopportato qua a casa. Allora, questo Typhoon qua, Fabri, dammi un consiglio, mi dà 10 watt, va bene con l'ampli? O devo fare qualcosa? E ci spengo anche io, quindi quanti watt gli stai dando? No, sono sganciato. 10 watt da questo apparecchio, hola, così. Se vado a fischiare ci sarai anche a 12-13. Forse un po' troppo sono in ingresso di quell'amplificatore. No, vabbè, non è sganciato l'amplificatore, non vorrei bruciarlo. Dovrei leggere qualcosa, però mi sembra di meno, forse massimo 10, guarda su internet, dovrei leggere. Claudio ha detto 8. Può essere, non lo ricordo. Adesso guardo. Da massimo 10 watt, non di più, quasi, da 0,5 a 10 watt l'ingresso. Vabbè, così sono 10 watt, 10 o 11, dai. È un po' troppo, eh. Infatti adesso Fabri, non so chi è il trimerio, li abbasso. Guarda. Allora, comunque, vabbè, allora, qua, stazionarie. Aspetta. 10, eh. E proprio si muove poco, 45 ce li ho un po' alte. 45 sei già un bel po' su, però va bene, dai. Un po' meno di 10 watt, dai, è meno. Meglio. Tipo 8? E 8 già vanno, più di 8, però perché poi di. Se non, magari non gli fa niente, però. Vabbè, meglio non rischiare, dai. Va bene, dai, che mi blocco un attimino. Allora, sì, 10 watt massimo, sì, ho guardato un'altra parte. Allora, vediamo un po', che non me ne... Ah, PVR, giusto? AM-PVR? Sì, dovrebbe essere quello. È solo che non imbatto, allora, c'è CW. Allora, AMC non c'entra niente, no? No, non credo proprio. Allora è PVR, dai. No, è PVR. Sì, però non mi ricordo perché cavolo mi sono fatto il cacciavitino con lo stilo della canna da pesca, lo stilo piccolino, e quello è anche induttivo, va bene. E comunque va bene, dai, che mi sposto un attimino. E vai, fai tranquillo Fabri, tranquillo, vai. Anche pieno potrei dire. Guarda adesso, ho aumentato qualcosa? Aspetta. Vai a fare la calibrazione qua. Ho mandato qualcosa. Non ci vede la differenza qua. Ti dovrei attenuare, necessariamente. Se arrivo a 9,25 mi ha detto. Allora, così arrivo a 9,25. E se così arrivo a 9,25 vuol dire non sta andando. No, sai cos'è? È talmente millimetrica. Allora, ti metto a 9. Ti metto a Santiago 9 da... No? Da compatto. Fammi la differenza. Così, senza... Vai, allora mettimi a 9, vai. Vai. Fra, tu sei. Cazzo, manca l'udente di sentire i buoni roghi. Allora, Marco, adesso sono sganciato. Ok. Adesso sono agganciato, vai. Aspetta, che cazzo sta facendo, aspetta. Sì, allora, da 8 a 9. Attenuato, sì, da 8 a 9. Non di più, però, Pensavo da 9,5. Cioè, da 8 a 9,5. Aspetta, va a fare un culo, allora. Circa 80 watt da 9,95, vabbè sono troppo vicini, da non fa. Luca, cosa c'era? Cappa, è mai chiamato? Ti sentivo qua. Ma è vero? No? Così forte sono arrivato a te. Che avevo sentito bene. Comunque vabbè, ho messo l'alimentatore separato, quello a 50 ampere l'ho messo nell'ampli e invece quello del baracchino è da sola. Perché lo devi separare? Chi c'è questo canale? C'è Marco. Ciao Marco, buonasera. Ciao Fra. Sì Luca, qua non più di tanto non varia. Siamo abbastanza vicini, puoi smettere di baracchino. Per essere 80 volte dovrebbe essere due Santiago in più, cioè da... c'hai capito, no? Però la vicinanza non fa, ti posso attenuare anche di più, ma non credo che cambi. Facciamo la prova, attenuo tutto a zero. Vabbè, ma la differenza non c'è, capito, non fa. Fai un passaggio, si sente più, non c'è. Sta segnando. E adesso ho agganciato, vai. Stai parlando in 40. Parlato. Quando Luca attacca scomparivano gli altri due. Scompariva Franco e l'altro che ha parlato assieme a Franco. Ho detto se la smettete con questi lineari, ovviamente. Ma ripasso, Roma. Sì, ciao Natalì. Sì, sì, sì, allora, quando ha parlato Natalino, avete ripreso in tre, no? Luca passava su tutti quando era attaccato. Se no era al pari con Franco, da liscio è uguale a Franco California. Quando attacca non ce n'è. Però vedi Luca, il segnale quasi non cambia, è una cosa decimillimetrica. Però poi all'audio si sente che passi tutti. Vabbè, dai, siamo troppo vicini, là. Va bene, però questo baracchino ha un problema di smitter, che allora, non mi ricordo il trimerino, forse ve l'ho chiuso, non so se è quello lì da cambiare, c'è qualcosa che non va, per questo smitter funziona o non funziona. Marco, va bene, Luca, diciamo che è più vicino a te, capito? Ma più o meno dovreste essere grosso modo la stessa distanza. Perché non provate ad attaccare tutte e due a pareti arrivate, però, non 1-100, 1-200, a vedere chi passa. Oppure da lisci fate la prova, lisci con 5 watt. Ma io sono a zero, Marco, io c'ho... Allora, aspetta. Va, la stessa va. Chi ha parlato? Passa Luca comunque, passa Luca, anche da liscio. No, non ho parlato io, stavo parlando con te. Buonasera. Luca, prova. 1, 2, 3, prova. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fine, hai già agganciato, sì, arriva lo 0. Hai sganciato, mi arrivi sul 3. No, allora così non passa nessuno dei due comunque, non passa nessuno dei due. Ciao, aspetta un attimo, sento il nome della donna. Che faccio una cosa. Noi qui pensiamo che sia una donna. Sì, poi non lo fare Marco, poi fai qualcosa. Il problema è che siano voi, poi... cambio. Che sta facendo un fatto tuo saturo? Cazzo. Comunque, praticamente da 60 watt, anche con un 8 watt, cioè 50, ha pescato 60. È la potenza sua, Luca, più di tanto, più di 40 minuti ne dà. Sì, vabbè. Adesso voglio provare in banda, vediamo, aspetta. Qual è? Che cosa qual è? 7. Sì. Sì, allora io con 4 watt circa, 4 watt me ne dà 49 il mio, misurato col Daiwa, 49 watt, 4 watt modulati, eh. Ma infatti Marco, non ne dà di più, massimo da 48 o 50 watt quell'amplificatore. Perché gli dà l'SCB? Però qui satura, non ha senso aver magari anche 70 e essere saturo di radio. Vabbè, riprendete che io sto andando a mangiare. Ciao, vai Natalino. E ho detto a guardare lo smitter a vedere come ci arrivo. Comunque in banda ci arriva quasi 100, eh. Ma perché mi parli sopra, Luca? No, non ha parlato sopra, Natalia, ha parlato dopo. No, ti ho parlato sopra, l'avevo sentito quando è mollato, E Luca è veloce, mi, è velocissimo, cioè non molli la portante, ha già ripreso, mi, è allenato. Volevo sapere come sta uscendo adesso. Natalia, qua, grosso modo 9.25, ma non... già sono cercato io, cioè, che prove fate? Siamo a un chilometro, nemmeno, siamo... 800 metri siamo. Intorno a zero, da tanti minuti. Non si può fare nessuna prova, da. Torniamo a zero. Natali, c'è Giovanni che ti sta chiamando. 9.40 sì, Natali, da me. E vabbè, dai, è inutile fare prove, siamo troppo vicini. E Giovanni non lo sento, è inutile che mi chiami perché non lo sento. Ma poi è saturo a morte. Ehi, assume un FM. Giovanni, sei in FM secondo me. Ma va bene questa radio, Marco, normale, microfono normale, va bene, sì? Aspetta che abbasso qua, va bene? Eccezionale, squillantissima, chiara, limpida, più che più limpida non si può. Questo va a il Typhoon. No, io non lo capisco. Non è in FM però, è saturissimo, al limite del Radio 1, boh. Allora, aspetta, sto qua il Typhoon, zio Fra. Adesso ho messo l'MB più 4, Marco. Spacca orecchie, però sempre limpida, vedi? Ok, agganciato, Adesso ho sganciato, vai. Io non me ne accorgo, se non a te non siete tutti incollati, cosa vi devo dire? Ah, ok, dai. Aumenta di 10 punti S, perché ti ha attenuato e aumenta così. Ma io so niente di tutto, dai, io te lo chiedo qua. Ah, ma ciao, mio Massimiliano è entrato, boh, tappeti vi tutti, 9.30. Ma anche io sono vicino lì, dai, tutto Roggere, buonasera, tappo. Ciao, fratello, positivo capar Roggere, dai, capo positivo, capers. Massimiliano è 9.20 qua, con una modulazione paurosa, naturalmente. Va bene, vado a mangiare, ciao. Comunque le prove è inutile farle a un chilometro, ve l'ha detto anche Coso, no? Ieri, quando era? Cioè, che prove fatte? Poi ci vuole uno smitter tipo Kenwood, no? Non il 3009, no. Vai Massimiliano. Positivo, dai, ciao Marco, buona carica e tutto l'oggetto, dai. Non si capisce, io ti do Radio 1, non capisco quasi cosa dici, è saturissimo, anche di più. Ma a me sta dicendo Marco? No, a Giovanni, credo si chiami Giovanni, è saturo, saturissimo, lo sentite voi? Vuoi la servono sicuro di tu Marco, non so cosa lui, cazzo. Ah, Marco lì, faccio parlare con uno, aspetta un attimo. Aspetta. Ecco, no, allora, stazionarie, dove non comunque un cazzo non che? quanto ti sta arrivando Massimiliano adesso? Guarda che sto usando il iPhone. Lo sto pilotando con l'autofatto, vai. Ma si è agganciato però. Ah, così sono sganciato, guarda E così sono agganciato, vai. 9.10, 9.20. 10 punti, dai, vai buono, va. Scala, guarda. Tu quanti ne hai sotto? 6. Cazzo. Ma sgancia? Scala, guarda, dai, questo sono radio, tutto lo c'è. Massimiliano, che ci ambassai, Che è importante? 9, quasi 9.15, ma modulare picchi al 30. Così sganciato, allora lo lasciamo sganciato, dai. Ma stai qui bene Massimiliano, se vuoi ti mostro un video, Non so, non ce ne sono problemi, io sto per farti vedere. Comunque questo 747 non dà più di 50 watt. Ma te lo rampi, te lo sei allunga. Ah, no, vabbè, ma te, 50 watt già sono buoni, dai. Da 50 a 8 c'è la differenza. Poi più in là magari se ne ho voglia me ne prendono più grosso. Mi prendono l'RM Italy. Il 503. Cosa dici Massimiliano? Io ti dico di sì, dai. No, io dai, dammi un consiglio, quella busta umiliare. Non te la spendere troppi soldi, Dipende dal budget o no. Se mi prendo tutto in due un amplificatore, no? Cosa adesso fai 200 euro? Con 200 euro prendi un bel 503 della RM Italy. Capito? 300 watt. Va bene allora. Nuovo di pacca, Com'è? Nuovo di pacca. Allora, RM Italy 503. Quello è RMKL503, lo vende Radio Hotel da eBay, 200 spiccioli. Ah, Massimiliano, ci sono due versioni, c'è il classico e poi hanno fatto la versione che permette di pilotarlo con più watt, però a quanto pare chi l'ha provato, e nonostante avesse questa specie di attenuatore per non saturare, saturava lo stesso, niente ne sai. No, mi sembra strano perché quello lì monta i finali MOSFET. Mi pare ce l'avesse, chi ce l'aveva? Vabbè, una persona che parla qui, credo che avesse quello che avesse il pilotaggio più alto, come una specie di attenuatore c'ha dentro, no? Di ingresso. Però in sesta posizione saturava e non solo in sesta, non c'era niente da fare. Allora meglio il classico, meglio pilotarlo con 2-3 watt e pigliare il classico. Infatti a MOSFET ne ha ben 9, un pilota e 8 finali. Però se tu li entri, Marco, con 3 watt, ne hai anche 250, va bene lo stesso, non è che devi averne per forza 300. No, infatti è meglio avere una modulazione pulita, magari anche 200 ma puliti di modulazione, Va bene, ciao a tutti, a dopo, ciao. Luca, ce l'ho voi, ti do il 1200. Allora, qua c'è l'RM Italy KL503, costa 226 più 10 euro, 236 euro costa. Oh, quello lì, ciao Fra. Ciao Massimiliano, buonasera. Ho detto ce l'ho voi, ti do il 1200 a provare. No, poi c'è il KL203P, costa 68 più 8, 76 euro. Ma no, già loro sono giocattoli, voglio dire. Senti, non mi dico questi cristiani. Ah, vabbè. Poi ce n'è un altro, il K805 plus 24 volt, 734 euro. Ce l'avevo io. Cazzo, 700 euro un amplificatore, minchia. Poi c'è KL500, allora, RM Italy, KL503 12 volt, questo lo stavo vendendo 339. È troppo. Ma dov'è Marco? Mandami il link, io non lo vedo, quello che hai detto tu, a quel prezzo lì. Sì, che te l'ha detto Massimiliano, RM KL503, lo vende Radio Hotel, guarda che ha due versioni, una è la versione normale e una è la versione HD, HD sta per High Drive, cioè lo puoi pilotare con più watt perché ha una specie di attenuatore all'ingresso, però a me questa è migliorie che poi vai a vedere se satura lo stesso, tanto vale pigliare il classico. Guarda, se lo trovo ti mando il link, un attimino, vai Massimiliano. Oh, positivo. Va bene, io portalo qui che lo proviamo, sto 1200 se ce l'hai. Ehi, ce l'ho giù in campagna Massimiliano, è un valvolare. Oh, lasciate lì. Allora, potenza d'ingresso 1,5 watt, potenza di uscita massimo 300 watt, corrente assorbita 32 ampere. Vabbè, con gli alimentatori da 50 ampere lo portano bene comunque. Ce l'ho qua, ce l'ho, andato giù lo stacco, non lo metto più, lo stacco giù. Scappa brioche, va bene, va bene. Però costa, aspetta, tu hai detto quant'è che costa? Io ho detto solo 200, mi sembra, 210, una cosa così. Costa 226,80 più 10 di spese. Vabbè, ma è una cosa nuova, però, eh. Lo so. Quello quanto potenza fa? Mi sembra che abbia, boh, adesso non mi ricordo se c'ha troppo potenza oppure c'ha la minima e la massima, adesso non mi ricordo bene. E qua c'è un pomello che si gira da puntino piccolo, puntino medio, puntino poco poco più grande, arrivare al pallino bianco grande grande. 5 marce, è Luca, è quello lì. Nuovo, garantito e tutto. Ma tu l'hai visto a quanto, Marco, scusa? E quello che hai detto tu, due, l'hai detto qua adesso, dai, che ce l'ho in camera là, è lo smartphone, quello lì è. Radio Hotel, li ha venduti sempre, è quello lì. Sì, ma tu hai detto una spesa più bassa. No, io ho detto, non ricordando, ho detto 200 spiccioli, prima costava 200 e pochi euro, adesso è aumentato nel corso degli anni, 226,80, quanto hai detto? Quello lì è, non è che sbagli, quello che lo vende a 334, dilli di attaccarselo a cu... Aspetta, ma è Electronic Service? Aspetta, lui abbassa un po', abbassa, non capisco. Allora, te l'abbascio, ho detto è Electronic Service. Guarda, Radio Hotel, tu compralo da Radio Hotel. Radio Hotel, S Radio Hotel, il venditore eBay, quello l'ha sempre avuti, ti dà, c'ha un bel di roba, però una cosa ti devo dire, dimmi, quando un CB l'ha comprato, quel lineare, non gli hanno dato quel connettore di alimentazione verde che c'è sul posteriore, non so se c'è la foto, infatti non c'è, cioè l'hanno venduto senza il connettore, dove tu praticamente metti i cavi sbucciati e stringi la vite, l'ha dovuto comprare a parte, quindi occhio, perché giocano anche su queste cose, e costa già, cioè un pezzo di plastica ti costa, mi pare, 10-15 euro. Poi c'è il, allora, questo qua è da 170 watt però, con la vento lassù, il KL405V. Quello è i finali a croce, come si chiamano, MRF, quelli a croce, dai. L'altro invece ha quelli classici, e ne ha 8, 503 ne ha 8, più il prefinale, è una bella bestia quella lì. Poi ti mando un video di quella cosa, con l'alimentazione ottimizzata e tutto. Ok. Luca, mandamelo su WhatsApp un attimo, quell'amplificatore. Aspetta che ti faccio copia link, aspetta. Sono le marce, l'amplificatore di antenna, è nero, è bello, è un bel linearetto quello. E ma infatti chi ci va in campagna a 1200 watt e cazzo consuma un casino di corrente. Ma già li fa, di sabbia, ma ne ho avuto attacchi, ma voi ti sposti di ogni canale, devi stare sempre lì a accordare, ma no. E infatti così, infatti da di cotone a batte, ma ti ho pigliato una chicchiata, la cradì. Fra ormai quelli non ci sono più. Euro buono, uno trasitorizzato, buono. E allora, ti fai l'alimentatore, mi prendi due alimentatori da 50 ampere l'uno, li colleghi assieme, ti fai il 24 e ti obbliga 24. Ma infatti, prima lo passasse lì, Massimiliano, è sprecato, cioè cosa ne vai? Bah. Adesso ti mando una foto, guardala fra. Meglio. Si può fare quei due collegamenti insieme? Sì, li metti accoppiati, due alimentatori da 50 e c'è 100 ampere. È buono, io cazzo con 2 ampere proprio gli accendi, non ti immaginare. Lo sentite a Giovanni? Io lo sento un pelino perché c'ho il QRM a 7, capito? Purtroppo c'ho il mio vicino che ha un macchinario agganciato e mi fa salire il QRM. Il K. Io ho recuperato un 48 modificato, Massimiliano. Vai, ti ho mandato la foto. Piccolino, non ingombra. Bello, sì, mi piace, un bel bello, Massimiliano, bello. Gappa. Cosa costa questa Gigio? Cosa? Questo cosa costa questo? 6. 600? Sì, io. Vabbè, ma è un peccatore scidio, dai. Tutto un altro pianeta. Oh, io la cagubba. Mi stavi dicendo che hai recuperato un 48, così? Un 48 di un camionista, di un amico che esce alla depressione, me l'ha dato a me. Praticamente non si sentiva, mentre con le cuffie si sentiva, gli ho cambiato solo la colonnina. Il resto ho lasciato tutto com'era. E vabbè, c'è il doppio rollatore, c'è tutto. Tutto completo, Buono. Mi ha regalato quello, poi mi ha regalato anche due antenne della 12L800, della Sigma, e poi mi ha dato due colonnine. C'aveva il camion, mi ha tracciato tutto, mi ha detto, te a te servo, perché io, dice, ma è stata una depressione, se ne vuoi ti do un dubbio, ho detto cosa te lo so regalare, non me la fotti nuda, me la regalare. Buono. Ah, sono tornato con il 3009, lo sto animando, allora, alimentazione, vabbè, baracchino con quello grande, era l'amplificatore con quello dei cinesi, dai. Ecco che bello questo, Luca. Bello sì. Allora mi ruggineggio, Vicchio. Ma Massimiliano, quando ci sono collegamenti, mi capito. Agganci quella, voglio che ti sentono. Positivo, positivo. Quando ci vediamo ti lascio quel tornado, così te lo provo. Tanto allora non lo fa girare tu, io non è che ne fa agganciando. Ehi, non c'è un problema, Massimiliano. Quando vuoi, così vediamo, dai. Vediamo un po'. Ci hanno i collegamenti, penso, io penso quando c'è propagazione con 300 watt mi senti a casa tua. E la voglia. Che cazzo? Qua la propagazione è molta, fra, qua arrivano anche 9.30 a volte. Ehi, fra, non mi sentiva? Che addirittura, vabbè, forse è una più aperta la tua, Massimiliano. È una bella piana questa, là, pure se come fosse, però vabbè. Dai ragazzi, vi lascio, è stato bello. Vi saluto e alle prossimine, va. Ma questo tornado che c'hai, qual è? Quello modificato? Cosa? Avevo visto, avevo messo una foto, mi pare. C'era in Facebook, così, così, Bello, bello, sì, l'ho visto, un bel apparecchio. Giovanni, lo sentite a Giovanni, Luca? Ma esce, fra, si stava lì il baracchino, esce tutto usato, si comprende nulla. Attento, Giovanni. 9 e Radio 5. Va bene, va, ciao ragazzi, ciao Franco, ciao Luca, Marco e c'era Natalino, mi sembra. Che avevo sentito a Marco nel telefono di Natalino. Va bene, dai, ci sentiamo che mi stacco. Ciao. Ciao Massimiliano, saluta in casa, dai, ci aggiorniamo. Ciao, ciao. Ciao Bulldozer, alla prossima. Ciao Massimiliano. Giovanni. Mi ascolto, sono, mi ascolto. Sta con io lui di Azzurria. Vedi, questo baracchino lo usa qua, esce bene, ma là tu è pietoso quello che c'è in macchina. Perché c'è il microfono che non serve quello che c'è in macchina, Luca. Non serve la cazzo di quel microfono. Questo va bene, con questo l'ascolto bene io. È quello che ho detto adesso. Questo voglio provare, fra. Qua nel 3009 il microfono normale. Vediamo un po' se mi senti bene, aspetta. E chi è? Sono macchine i buoni. Guarda un po', fra, questo è normale, nel 3009, bene sto uscendo. Benissimo Luca, va bene. Hai visto? Questo microfono io me lo... Come si dice, ho cambiato la capsula, gliel'ho adattata. Questa esce... Tutti dicono che esce bene. No, c'è nessuno. Ciao già. Ciao già, di buonasera. buonasera a tutti. Esce tutto quanto strano, sembra fuori frequenza. Guarda che devi essere un FM. Io vedo dove fare, un pezzo di lamierino, fra, che prenda l'amplificatore, capito? Per agganciarmelo al mobiletto, con due viti. Ma che sto posso trovare un pezzo di lamierino così, sottile? Pezzo d'alluminio. C'ero io in campagna, se non ricordo te lo porto su. Adesso oggi non ci sono scelto perché non stavo bene, cazzo, ma pezzo di mezza. Ti faccio l'influenza, pure a me. Covid? Se vuoi valo Covid. No, vera, ho fatto il tampone negativo. No, sono uscito stamattina presto a buttare la mondezza, capito? Magari dal caldo al freddo. No, non ho febbre, non c'ho nulla. Stava a gamba. Luca, qua non gli ho cambiato la capsula a questo microfono ed è sempre il 3009 col microfono originale. E invece a me il microfono originale mi si è rotto, capito? Ce l'ho la carcassa del microfono originale, ma se, anzi non è manco originale, lo sai. Era di un altro baracchino, boh. Mi bari, aspetta che se lo trovo, dico che marca è. Guarda, mandami la foto dell'originale e te lo faccio vedere l'originale qual è, perché questo è sicuro che è originale perché mi è arrivato nuovo. Io sto usando sempre quello là, capito? Ma il 3009 c'è bene anche se... c'è bene anche... perché è pesante il microfono, secondo me c'è un compressore. Ma quel circuito che aveva tutto funziona benissimo. Mandami la foto già. Aspetta che ne faccio un altro microfono normale, Deofra. Attenzione Blesco, chi è il numero uno? Non c'è il numero uno. No, le connessioni di qua non vanno bene, devo spostare i fili. Aspetta, questo al dato e glieli sposto. Il numero uno è morto, non c'è. Ah, ok. Se vuoi diventare tu il numero uno. No, il numero uno è Pomponi, è l'unico. Ma Pomponi è un uomane. Pomponi è un amico. Pomponi è un porco. No, dove stai modulando? Vai Giovanni. Sono bene che sto modulando quello. Cosa ne so? Non lo so. Il segnale mi ha detto alto, però è scordato di radio. Non lo saccio. Tu sei 9.40. Dove sei che stai modulando? Magazzino. Luca, a me bene mi ascolti, sì. Una favola. Luca, siamo sulla luna. Luca, guarda che te l'ho mandato. Aiuto, aiuto, siamo nella luna. Non lo vedi che sei modulato. No, già, non è così, non era così. No, no, no, no, diverso. Questo è l'originale. Lo vedi che c'è anche Superstar. Ah, il microfono è Superstar, ma c'è la stessa carcassa del Galax, no? No, no, no, tutto diverso. No, no. No, fra, è diverso. Ma Luca, cosa ti serve? La carcassa ti serve. Di che cosa? Del microfono. No, ma del 2009. Ce l'hai? Non lo so, devo controllare, forse ce l'ho io. Adesso mi cambio le condizioni, vediamo un po', provo il vostro microfono. E lo sto guardando, Marco. Devi avervi anche uno con la batteria da 1,5. Sì, ce l'ho quella, attaccata al pubblico. Se c'è bene lo stesso. Non ti credi, la giù bruvato, non ti credi. Ragazza, ma va bene. Sì, amplifica, ma quello rimane lì, capito, fra. Attaccata a quello. Ma quanti ci dica va a fare connessione? Al Typhoon, ma... no, non al Typhoon, al Mobicom.